la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, un saluto da Oscar Giannino in questo assolato venerdì 18 di luglio, 16:35 primi 39 secondi, siamo in diretta da Radio 24 qui dagli studi di Milano. Vado al punto del giorno, no, ve lo dico subito, no, non ci occupiamo della soluzione in appello di Berlusconi per il Rubygate, che avrà comunque impatti politici eccetera eccetera. E purtroppo un pensiero, spero condividendo l'opinione di tutti in ascolto, comunque la pensiate, per le vittime non solo dell'abbattimento dell'aereo del Boeing 777 della Malaysia in Ucraina, ma anche delle vittime in queste ore a Gaza per l'operazione di terra che Israele sta portando contro Hamas. Noi ci illudiamo, facciamo molte chiacchiere sull'Europa, sull'economia, ma temo che siamo dei nani netti su tutto ciò che poi riguarda ciò che ci avviene praticamente a casa nostra, sui nostri confini, perché la cosa riguarda l'Ucraina, riguarda la Libia, di cui non trovate spazio sui giornali, ma che comunque continua a essere devastata da instabilità cronica, riguarda Israele, riguarda la striscia di Gaza. A volte penso che possiamo solo pregare invece che adoperarci politicamente, siamo troppo inesistenti su tutte queste partite. No, oggi ci occupiamo di economia come facciamo quasi sempre. Perché? Perché il dato di giornata è un dato di quelli che secondo me dovrebbe segnare la sveglia, perché anche la Banca d'Italia ufficialmente stamane, in tarda mattinata, ha aggiornato, purtroppo, ma era atteso secondo me, le stime di crescita del PIL in questo 2014 a un modestissimo più 0,2%, in regola con tutto quello che stanno facendo i più grandi osservatori internazionali, quindi molto distante dal più 0,8% che il governo continua a ribadire nelle sue previsioni ufficiali, anche se il ministro Padoa non ha fatto mistero che insomma mantengono quell'obiettivo, ma quell'obiettivo non sta più in piedi. Allora, questa notizia ufficiale, che secondo me fa finire l'era dei cosiddetti gufi, quelli che giocano al ribasso, nessuno gioca al ribasso, ecco, finisce l'era dei gufi, quelli che, come dice il Presidente del Consiglio, rosicano e tifano perché le cose vadano male. No, bisogna guardare le cose come stanno. E non vorrei che iniziasse, dopo l'era dei gufi che finisce con questa previsione di Banca Italia, l'epoca degli struzzi, cioè di quelli che fanno finta di non vedere le cose come stanno e mettono la testa sotto la sabbia. Allora, avendo questo come sfondo, quindi se ci volete dire la vostra, chiamate e mandateci sms 800240024, il numero come sapete per telefonare, su come la pensate su questa crescita così asfittica. L'argomento del giorno è il microfono dato a un componente del governo che però due giorni fa sul Sole 24 Ore ha lanciato un manifesto, forse impegnativo, ma insomma ha fatto una proposta. Alla luce di com'è l'andamento dell'economia italiana e dei mercati internazionali, forse bisognerebbe pensare, anzi lui esplicitamente dice, io penso che bisognerebbe fare una specie di piano industriale per l'Italia, cioè puntare sui nostri punti di forza e fare alcuni passi energici guardando le cose più dal lato dell'offerta che dal lato della domanda. Per capirci, gli 80 euro del bonus IRPEF che il governo ha dato vanno dal punto di vista della domanda, però abbiamo visto che con redditi così scesi in tutti questi anni, il più di quegli 80 euro vanno a ricostituire redditi intaccati invece che a fare maggiori consumi e riprese della crescita. E invece ci dovremmo concentrare di più sul lato dell'offerta. Ho pensato che fosse utile, sul Sole 24 Ore in questi giorni c'è un dibattito di una serie di articoli che escono su questa proposta, ho pensato che fosse utile lasciarla esporre a lui, alle vostre orecchie, per vedere se vi convince e poi anche per chiedere a lui quanto di questo vedremo in atto. È un componente del governo che ha in mano competenze importanti, perché sarà praticamente lui a presiedere il consiglio in questo semestre a tirare la fila, più che a presiedere, ovviamente poi c'è il ministro del suo ministero in prima fila, però lui ha alcune particolari competenze su tutto ciò che riguarda l'industria, la concorrenza, la competitività, e quindi è un punto fondamentale del nostro semestre, e segue poi partite internazionali decisive, cioè trattative internazionali come quella transpacifica tra Europa e Stati Uniti, che in questi sei mesi potrebbe dare molto una mano, visto che noi esportiamo molto lì. Quindi insomma è in procinto proprio tra poche ore di partire insieme al Presidente del Consiglio per fare un giro in Africa e tentare di stringere un po' di accordi per le nostre imprese. Il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, che è qui con noi oggi pomeriggio, io lo ringrazio. Grazie Vice Ministro. Buongiorno, grazie a voi. Allora, può riepilogare in sintesi i punti di questo piano che ha avanzato? Sì, ma guardi, io parto dalla, prima di tutto dall'analisi di potenziale come si farebbe in un'azienda. Oggi l'Italia va bene, anzi va molto bene, nell'export perché c'è una crescita della domanda internazionale nei settori di nostra specializzazione. Noi abbiamo fatto l'anno scorso sui beni manifatturieri, quindi quelli che si producono nell'industria, circa 100 miliardi di surplus commerciale, quindi positivo per noi. Cresciamo da 3 anni più della Francia, molto più della Francia e più della Germania stessa. Questo indica che noi siamo forti in quest'area di attività che è l'area dell'esportazione. Ora, io vengo dal settore privato, penso che la buona norma è quella di investire dove tu vai bene, non di investire dove tu vai male. Ora, noi sappiamo che nei prossimi anni questa domanda internazionale nei nostri settori crescerà enormemente. Do un dato semplice, insomma rozzo, però che dà l'idea. Ci saranno da qui ai prossimi 15 anni circa 800 milioni di consumatori in più, consumatori e turisti. Il dato più o meno coincide. Ora è un potenziale gigantesco che noi dobbiamo sfruttare. Allora, come si sfrutta? Si sfrutta costruendo una politica economica che si basi sull'offerta, cioè che renda le imprese più competitive e più internazionali. Questo vuol dire agire su tanti freni che bloccano l'industria, in particolare sul carico fiscale, quindi con un taglio deciso dell'IRAP, e su tutti i fattori di contesto che ci bloccano, a partire dal diritto del lavoro, ma non solo, il diritto fallimentare. Per esempio, oggi molti fondi non riescono a entrare in quello che viene chiamato il segmento dei distressed asset, cioè di tutte quelle che sono le aziende che vanno molto male, ma che possono in qualche misura avere una seconda chance. Ora, questo perché io ritengo sia più utile che investire sulla domanda, quindi per intenderci tagliare le tasse ai cittadini per cercare di far ripartire l'economia con i consumi. Perché la domanda, per metterla in moto, servono ammontari di risorse molto più ampi e non solo, ma rischia di andare, cioè se ci sono più soldi rischiano di andare o in risparmio o in acquisto di beni importati, come peraltro un pochino sta succedendo, le importazioni aumentano. Ma soprattutto quello che io sostengo è che tutto questo deve essere articolato in un piano. Faccio un altro esempio: noi discutiamo tantissimo di flessibilità a Bruxelles, di richieste di flessibilità. Ora, io ritengo che trattando proprio l'Italia come se fosse un'azienda con un ottimo prodotto ma un po' indebitata, che tu puoi convincere, anche se sei indebitato, i tuoi investitori a darti più margine, ma gli devi dire esattamente dove e che risultato avrai. Allora, questo vale anche sugli investimenti. Vogliamo avere un po' più di margine per far riprendere gli investimenti pubblici in alcuni settori tipo il digitale, che sono fondamentali, tipo le infrastrutture? Benissimo. Cerchiamo di mettere tutto questo disegno, come si farebbe proprio in un'azienda, in un piano che dice: guarda, io ho questi margini di flessibilità, ma ho questo potenziale straordinario, se mi muovo su questi fattori raggiungo questo risultato. Questi devono essere numeri, perché altrimenti la discussione, sia quella sulla crescita che quella sulla flessibilità, diventa una discussione di lana caprina che non interessa a nessuno. Aggiungo e concludo un solo punto sulla flessibilità, sulla crescita, pardon. La crescita è anemica, e dire che la crescita non è anemica o dire che la crescita è anemica non chiama in causa il governo, se non per le cose che comunque deve fare. Siccome allo 0,8 di crescita il nostro debito ha comunque una difficoltà di sostenibilità, infatti continua a crescere nonostante noi continuiamo a produrre avanzi primari, noi siamo lontanissimi dall'obiettivo che ci dobbiamo porre, che è quello di una crescita al 2%. Dunque, che sia lo 0,8, lo 0,3, lo 0,5, lo 0,7 è troppo poco, e dire che è troppo poco è semplicemente guardare la realtà dei fatti e cercare delle soluzioni. Vice Ministro, quando lei dice naturalmente offerta invece che domanda, una considerazione è ovviamente è anche la popolarità o l'impopolarità, la politica si fa anche con i consensi. Prima delle elezioni europee noi abbiamo visto il bonus di 80 euro, di cui io non sottovaluto, non ho mai sottovalutato l'importanza. Poi altro conto è vedere a parità di capitale impiegato che cosa fa scattare meglio la bolla nel breve della ripresa. È ovvio che la stessa cifra in meno IRES e IRAP alle imprese avrebbe avuto un maggiore effetto, però ovviamente non sarebbe entrata nelle tasche di alcuni milioni di italiani. Dal punto di vista del consenso, secondo lei, quello che lei propone, cioè concentriamoci sul meno IRAP, sulle flessibilità dei mercati e delle regole, sugli investimenti pubblici, non ha un limite, cioè quello di essere meno facili al consenso piuttosto della scelta della domanda? Ma guardi, secondo me no, se gli si chiarisce il potenziale. Cioè, di nuovo, quando noi discutiamo di queste misure, ne discutiamo in maniera astratta senza spiegare qual è il percorso che proponiamo, no? Allora, io il percorso che propongo è quello della Germania, cioè di portare il paese ad avere una quota tra un rapporto tra esportazione e PIL che può arrivare vicino al 50%, oggi è intorno al 30%, e questo vuol dire più posti di lavoro. Per esempio la disoccupazione, noi parliamo di disoccupazione a tassi allarmanti, ma la disoccupazione si combatte solo mettendo le imprese in grado di competere, non è che ci sia un altro modo, e svolgere anche un ruolo traino sul prossimo futuro di questa grandissima massa di consumatori che arriva, che l'Italia ha totalmente nel suo DNA. Ecco, se io credo, noi diamo ai cittadini e alle imprese un orizzonte di medio periodo in cui costruire poi una crescita però duratura, piuttosto che invece fare dei provvedimenti che sono, attenzione, importanti anche da un punto di vista di giustizia sociale, perché io che ero un sostenitore del taglio dell'IRAP rispetto al taglio dell'IRPEF per un dato di fatto, proprio quello che diceva lei, del ritorno sull'investimento, non nascondo però che gli 80 euro sono un dato di giustizia sociale, cioè uno era un taglio più, come posso dire, efficiente economico, l'altro era un taglio più giusto. Allora nel governo del paese spesso c'è questa biforcazione, sono cose giuste e cose che sono più funzionali alla crescita. No, ecco, ma infatti la questione non è adesso fare sono d'accordo, è inutile fare polemiche retrospettive, certo. Il problema è che quello rispondeva a un obiettivo, adesso il problema è concentrarsi sugli obiettivi che dice lei. Adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale, io riparto e anticipo subito la domanda. Queste misure assorbono più spesa pubblica di una strada alternativa, visto che Padoan ieri, secondo me consapevolmente, ha detto le scelte che dovremmo fare con la legge di stabilità, vista la bassa crescita, saranno impegnative, visto che bisogna anche estendere il bonus 80 euro alle categorie che non l'hanno percepito, perché il Presidente del Consiglio ha detto lo faranno rendendolo strutturale anche per i pensionati, per gli incapienti, addirittura ha detto anche le partite IVA. Quindi la domanda è, questo pacchetto sull'offerta, secondo lei di quante risorse davvero, come ordine di grandezza, può avere bisogno? La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16.49, in questo giorno in cui la Banca d'Italia abbassa ufficialmente le previsioni di crescita 2014 a più 0,2%, e con noi il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che propone un vero e proprio piano industriale per l'Italia. Ricentriamoci dopo aver dato gli 80 euro, quindi una misura di giustizia sociale, sostegno alla domanda, però concentriamoci su un vero piano dal punto di vista dell'offerta, quindi concentriamoci su chi paradossalmente potrebbe sembrare sono quelli che vanno meglio invece che quelli che vanno peggio, cioè le imprese che sono agganciate ai mercati internazionali, che è la parte, diciamo, che contribuisce di più a contenere la perdita di PIL o a produrre PIL aggiuntivo, e diamoci da fare con delle misure ordinamentali di flessibilità per avvantaggiare le imprese, renderle più competitive, farle crescere, anche il mercato del lavoro, ma innanzitutto meno IRAP. Ecco, io ho fatto una domanda al Vice Ministro, in termini di risorse secondo lei è compatibile con il nostro percorso di rientro questa scelta? Ma secondo me lo è, prima la cerco di quantificare, no? Secondo me un taglio, diciamo, che abbia un qualche effetto sull'IRAP deve essere un taglio nell'ordine di 10 miliardi di euro, per dare concretamente una forza di ripresa. Le altre misure sono misure sostanzialmente ordinamentali, quindi appunto non hanno un effetto di costo. La ripresa degli investimenti pubblici produttivi, non quelli improduttivi, è ovviamente il margine di flessibilità che tu devi poter negoziare nell'ambito del piano all'estero, però sono investimenti, non spesa diretta, voglio dire non spesa ricorrente. Ora è chiaro che i 10 miliardi sono una posta molto significativa ed è chiaro che questa è una direzione diversa da quella dell'estensione del bonus, perché non può tutte e due le cose, è molto complesso farle in questo scorcio. Devo anche dire un'altra cosa, io credo che un margine di flessibilità si può ottenere se la direzione anche sul tema della copertura della spesa, quindi sul deficit, se la direzione viene spiegata molto bene, soprattutto se viene quantificato il ritorno in termini di aumento di PIL. Quindi penso che un pezzo di questo taglio possa essere presentato come un pezzo di investimento che ritorna in PIL, si può misurare anche in quanto tempo, mentre un pezzo deve essere inevitabilmente una misura alternativa e diverso, un percorso diverso rispetto a quello disegnato dell'estensione degli 80 euro. Ecco, io penso che su questo quello che conviene fare, perché è la cosa più importante, è lavorare numeri alla mano, cioè quello che dobbiamo fare come governo, quello che io cercherò insomma di portare all'attenzione di tutto l'esecutivo. Non ho, ovviamente non ho la pretesa di essere una voce determinante dentro questo esecutivo, però cercherò di portare la metodologia di cercare di dare dei numeri attaccati alle misure che si fanno, perché altrimenti rimane un orizzonte che è un orizzonte, come diceva prima lei, che dipende troppo dal consenso e troppo poco dal risultato. E io anche credo che sia un metodo che ci renderebbe più facile, più agevole il tentativo in Europa di strappare dei margini correlati a delle riforme quantificate meglio come impatto oltre che come risorse. Certo. Detto tutto questo, altra obiezione che ci fa un ascoltatore, perché proprio in queste ore, per esempio, i sindacati in Eni hanno annunciato uno sciopero generale relativo solo all'Eni, però perché? Perché l'Eni, la nuova gestione, rendendosi secondo me con una strategia industriale comprensibile, si vuole ricentrare soprattutto sul core business, cioè dove va bene, e non stare in piedi perdendo dove va male. Quindi c'è un problema nella nuova gestione De Scalzi al posto di Scaroni, perché l'Eni ha iniziato in alcune raffinerie, la raffinazione è un settore che ha problemi generali in tutta Europa, è molto energivora, molto sporca, non è più competitiva rispetto ai costi della raffinazione che si fa in altre parti del mondo, e l'Eni nella nuova gestione dice: noi non ci stiamo più a perdere soldi. Naturalmente questo fa esplodere enormi tensioni a Gela, in Liguria, ce ne occuperemo la prossima settimana. La strategia di concentrarsi dove le cose vanno meglio per evitare disagi sociali ha bisogno forse anche di una riflessioncina, Vice Ministro, sul mercato del lavoro, perché significa davvero poi darsi un sostegno ai redditi universale per chiunque perde il lavoro, altrimenti continuiamo ad avere il sindacato che dice no, dateci la CIG come in Alitalia e così via. È vero o no che c'è anche un pezzo che riguarda la riforma del mercato del lavoro per consentire di non alimentare la paura di chi dice: ma se vi concentrate solo su chi va bene e io che vado male senza averne colpa, dipendete di un'impresa o di un settore che perde, significa che io mi aggiungo ai senza lavoro. Ma intanto concentrarsi su, non è su chi va bene, ma su quello che va bene, che è diverso. Cioè non è concentrarsi sulle imprese che attualmente vanno bene, ma far diventare più imprese, imprese profittevoli, perché riescono a agganciarsi alla domanda internazionale e quindi avere più posti di lavoro. Secondo, sì, è determinante il mercato del lavoro. Guardi, il mercato del lavoro, se non si riforma il mercato del lavoro nel senso di partire da un presupposto che io, che, ripeto, vengo dal settore privato, a cui credo fermamente, cioè che nessun datore di lavoro ha mai licenziato per capriccio un operaio, e quindi per capire che bisogna lasciare una libertà, una flessibilità forte di poter perdere il lavoro, riacquistare il lavoro, trovare un altro lavoro. Se non si ragiona in quest'ottica, che consente la migliore allocazione possibile delle risorse all'interno di un paese e quindi la crescita, noi avremo un lento sgretolamento nei settori dove andiamo male, spenderemo un sacco di soldi per gli strumenti straordinari di supporto e non risolveremo nessun problema. Questo vale per l'Alcoa, vale per il Sulcis, vale per tantissime situazioni. Allora, io le do un dato per far riflettere chi ascolta: dall'inizio della crisi, cioè dal 2006, inizio 2008, noi abbiamo speso all'incirca 100 miliardi nel nostro paese nelle varie CIG in questi 7 anni di crisi, 100 miliardi, questo è l'ordine di grandezza, e li abbiamo spesi senza una sola ora di riformazione e di ricollocamento, incrocio domanda offerta del lavoro. Queste secondo me sono follie, no? Non vanno bene, capite? Il sindacato che difende la protrazione di questo sistema lo fa a fine di tutelare i deboli, ma nella realtà ci indebolisce ulteriormente. Questa è la mia opinione, quindi bisogna riformarla quella roba lì. Sentiamo un nostro ascoltatore, Leonardo da Bari. Prego Leonardo, come la pensa? Buonasera Tonino, io volevo dire, questa chimera della politica industriale di cui si parla da almeno 20 anni, l'Italia parla di manca di politica industriale, qual è? Io penso che non è tanto che sia una chimera, il problema è che secondo me politica industriale coincide con politica dei salari. Quindi lei dice il contrario, bisogna avere la domanda, qua si guadagna troppo poco. Sente l'obiezione dell'ascoltatore, molto diffusa nei messaggi, Vice Ministro, come risponde? Facciamo rispondere direttamente il Vice Ministro, che dice? No, io dico che tanto la politica industriale in Italia c'è stata e è stata una politica industriale basata sul dirigismo, cioè sullo scegliere quali settori aiutare e quali non aiutare. Questo chiariamo che non è quello di ciò di cui lei è nostalgico, per così dire. No, ma è proprio, io personalmente lo considero il disastro ed è quello che ha alimentato il debito pubblico, primo punto. Secondo, poi i salari crescono se crescono i profitti delle aziende, che invece i salari qua non crescono indipendentemente dai profitti delle aziende, perché se succede questo se i salari crescono, i profitti delle aziende non crescono e quindi non si può investire, esatto, quindi le aziende chiudono e si crea disoccupazione. Allora qui mi lasci dire ai nostri ascoltatori, i margini dell'industria del nostro paese sono in calo in tutti questi anni di crisi, non in crescita, guardate bene i numeri e lasciate ancora che vi aggiunga che naturalmente tutto questo non ci deve far dimenticare i sovraccosti del settore pubblico. Mi limito a dire che lunedì siamo in attesa delle proposte del Presidente del Senato e della Camera, quindi Grasso e Boldrini, per tagliare i sovraccosti di Camera e Senato. Ricordo a tutti che lì ci sono 150 stipendi oltre 240.000 euro lordi, che sono il limite per legge nella pubblica amministrazione, ma Camera e Senato vogliono mantenerli fino al 2018, vedremo se lunedì lo faranno. Vi ricordo che alla Camera raccolgono 28 milioni di contributi pensionistici ogni anno, ma pagano pensioni per 233 milioni, la differenza, cioè 205 milioni, li paghiamo noi. Ecco, è giusto tutto questo? No! Continuate su Radio 24, grazie al Vice Ministro Calenda, appuntamento con me a lunedì.